Io penso che un successo come quello della solitudine non sia doppiabile, perché è entrato in quel successo una serie di elementi anche circostanziali, del giovane esordiente, di una voce che, come dire, a un certo punto si diffonde incontrollata, per cui delle persone insospettabili quasi hanno letto quel libro, persone che magari leggono un libro ogni anno. Non so, dubito che sarà questo stavolta, ma non me l'aspetto. Credo che tra 10 anni o tra 20 anni guarderò il mio percorso e sarà la solitudine l'anomalia nel percorso. L'anomalia bellissima, ma anche irripetibile, mentre io sarò andato a scavarmi il mio giusto spazio in questo mercato, in questo mondo editoriale.